giusti miei consigli, a deità di approva e io ne godo. Se col mezzo d'argene e a mio favor favella, premio del mio tormento avrò la pena. Certo son di goder che la mia fe-